rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dell'Europea, dei giornali europei, di tutto quello che riguarda l'Europa. E come potrete immaginare, anche questa settimana è un po' tutto monopolizzato dalle reazioni dei paesi europei, della Francia in particolare, agli attentati del 13 novembre. Mi piace iniziare da un articolo apparso sul sito di Internazionale, ma anche sul sito di voxeurope.eu, che sapete è un punto di riferimento per questa rassegna e credo anche per tante altre persone che vogliono avere questo sguardo sull'Unione Europea. È apparso ed è di Giampaolo Accardo, che è il direttore di Vox Europe, e si intitola "L'Europa è disarmata contro i jihadisti". Ve ne leggo una parte. Dopo gli attacchi di gennaio contro Charlie Hebdo e il supermercato Kosher, che avevano provocato 17 morti, i francesi pensavano di aver vissuto il loro 11 settembre, un attacco inedito che aveva trascinato il paese in una spirale di solidarietà e di ritorsioni. Lo slancio di solidarietà nazionale e internazionale che ne è seguito e il rafforzamento delle misure di sicurezza e di sorveglianza avevano fatto sperare che gli eventuali imitatori dei fratelli Kouachi e di Amedi Coulibaly, i terroristi che avevano orchestrato e portato avanti, aggiungo io, vi ricordo io, l'attentato appunto a Charlie Hebdo, avrebbero desistito di fronte alla coesione e alla determinazione dei francesi a non cedere al panico. Come sappiamo, non è andata così. Già all'indomani degli attacchi di gennaio, gli esperti avevano avvertito che rafforzare le misure di sicurezza e le operazioni militari contro il gruppo Stato Islamico non sarebbe bastato e nuovi attacchi erano probabili. Non, la domanda non è se, ma quando, dicevano. L'adozione all'inizio di maggio di una nuova legge sull'intelligence, una sorta di Patriot Act, che era quello adottato negli Stati Uniti dopo l'11 settembre, non è bastata a evitare le stragi del 13 novembre e appare sempre più evidente che la Francia e l'Europa sono disarmate contro il terrorismo jihadista. E questo appunto l'opinione di Giampaolo Accardo, lo trovate l'articolo intero sul sito di internazionale.it. Un'altra analisi degli attacchi di Parigi è di France Inter, e poi anche in questo caso riportato poi da Internazionale nella sua versione cartacea, è un'opinione di Bernard Guetta. Anche qui ve ne leggo una parte. Dopo gli attentati di Parigi le cose stanno cambiando rapidamente, lo avevamo già capito il 14 novembre in occasione dell'incontro di Vienna sulla Siria, che si era concluso più rapidamente del previsto con un accordo per far partire un dialogo diretto tra il regime e i ribelli, che la Russia non considera più come terroristi. L'avevamo capito durante la riunione del G20, dove Barack Obama e Vladimir Putin avevano pubblicamente dato la priorità alla definizione di un compromesso sulla Siria. A Vienna come al G20 è apparso evidente che l'obiettivo della Russia non è più quello di restituire a Bashar al-Assad tutti i poteri perduti, ma quello di allearsi con le altre potenze. E qui un'analisi appunto di come gli attentati del 13 novembre abbiano un po' rivoluzionato, sconvolto, rivisto, anche se poi abbiamo visto non sempre in senso positivo, i rapporti tra l'Unione Europea, gli Stati Uniti, soprattutto gli Stati Uniti e la Russia. A proposito di francesi, soprattutto di vertici francesi, vi segnalo un'intervista che il premier francese, quindi non il presidente Hollande, ma il premier Manuel Valls, ha rilasciato alla Süddeutsche Zeitung, un quotidiano tedesco. Manuel Valls appunto ha chiesto che l'Unione Europea cessi di accogliere migranti in ragione della minaccia jihadista e ha inviato a trovare soluzioni perché chi lascia la Siria sia preso in carico dai paesi vicini, e torna, come vedete, il tema della Siria. Sulla scia degli attentati di Parigi, il premier francese ha incontrato informalmente un gruppo di giornalisti europei a Matignon e ha appunto rilasciato parecchie dichiarazioni che poi la Süddeutsche Zeitung ha ripreso con una evidenza forse maggiore di altri giornali. L'Europa deve dire che non è in grado di ospitare tanti migranti, non è possibile. Il controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea è essenziale per il futuro stesso dell'Unione. Se non lo facciamo, la gente dirà basta Europa. L'Europa deve trovare soluzioni perché i migranti siano presi in carico dai paesi vicino alla Siria. In caso contrario, l'Europa mette in dubbio la sua capacità di controllare efficacemente le sue frontiere. E tra l'altro sapete che poi ci sono stati incontri tra la cancelliera Angela Merkel e il presidente francese François Hollande. Angela Merkel è stata poi molto esplicita, addirittura sarebbe imminente un invio di forze tedesche, boots on the ground, stivali sul come dicono gli americani, cioè proprio soldati che concretamente vadano a combattere, questa volta in Mali, che è un altro degli stati africani vivaio, potremmo così dire, di jihadisti. Restando in Germania, ma tornando a un vero e proprio allarme terrorismo, in questo caso che riguarda la Germania, i confini interni della Germania, il paese in sé, la Frankfurt Allgemeine Zeitung ha spiegato che è arrivato da Parigi un allarme appunto per la Germania ed è stato questo che all'ultimo minuto ha portato a cancellare una partita di calcio a Hannover. L'intelligence francese ha passato ai colleghi tedeschi un'informativa su 5 attacchi dinamitardi meticolosamente preparati, 3 in uno stadio, 1 a una fermata d'autobus e 1 alla stazione di Hannover. La stessa sera, appunto, il 17 novembre, lo ricorderete, è stata cancellata la partita Germania-Olanda. Un risvolto ancora diverso degli attacchi terroristici ce lo spiega Le Figaro, che fa una prima stima tracciata dalla direzione del Tesoro francese, del Ministero del Tesoro francese, anticipata da una radio francese RTL. Gli attentati di Parigi e il clima di tensione che hanno generato potrebbero costare fino a 2 miliardi di euro all'economia francese, ovvero circa 0,1 punto di PIL. Si tratta solo di una prima stima e molto difficile definire degli indicatori per misurare l'impatto di questo tipo di evento eccezionale, ha spiegato al sito di Le Figaro il ministro dell'economia Emmanuel Macron, rifiutando di dare commenti più specifici sulla cifra, ma aggiungendo che il ministero fornirà cifre più precise tra qualche settimana. Intanto l'ufficio del turismo di Parigi ha diffuso un suo primo bilancio degli effetti degli attentati. Per quanto riguarda gli hotel, nei 10 giorni successivi hanno perso 24 punti di tasso di occupazione, a causa soprattutto dell'annullamento di fiere e convention, in testa per esempio il Salone dei Sindaci e delle collettività locali. La tendenza sembra però dare segni di inversione, dato che il calo è stato inferiore a partire da domenica 23, quindi trascorsi 10 giorni dagli attentati. È tornato in linea con i dati normali di questo periodo dell'anno il tasso di annullamento dei biglietti aerei. A questo punto però il vero banco di prova, scrive Le Figaro, saranno le prenotazioni di Natale e per Capodanno. Tra l'altro sappiamo che questi attentati hanno avuto delle conseguenze, non ci sono dati precisi come quelli forniti dalle Figaro, ma sappiamo che ci sono delle conseguenze per il turismo in tutta l'Europa, perché c'è una vera e propria paura che si è diffusa, anche perché così si sono diffusi anche gli allarmi su possibili attacchi che potrebbero, appunto, futuri, che potrebbero riguardare non soltanto la Francia. Per cambiare solo per un attimo argomento, vi segnalo un articolo di Euronews che riguarda una notizia di energia, e però dico che cambiamo argomento, ma forse non poi completamente, perché sullo scacchiere geopolitico e sui rapporti in particolare tra Russia e paesi medio orientali e naturalmente anche tra Russia e Turchia c'è anche la questione energetica. E allora vi segnalo questa notizia perché sarebbe in arrivo una lettera alla Commissione dell'Unione Europea da parte di molti ministri dell'energia dei 28 paesi dell'Unione, appunto, contro la realizzazione del raddoppio di Nord Stream che porta il gas russo in Europa attraverso la Germania. L'ha annunciato il commissario dell'Unione Europea all'energia Miguel Arias Caneta al termine di un consiglio dei ministri, dove nel corso di diversi bilaterali alcuni ministri hanno preannunciato l'invio di questa lettera. Ecco, vi dicevo, questo è un ulteriore punto di discussione che si aggiunge al già complicatissimo scacchiere geopolitico. Un'ultima notizia che in questo caso traggo da Haaretz con la traduzione su internazionale, perché c'è stato anche un avvertimento dell'Unione Europea, quello che viene definito un avvertimento dell'Unione Europea a Israele. Che cosa è successo? Che l'Unione Europea ha deciso di distinguere tra i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali e quelli fabbricati in Israele. E secondo Haaretz è un avvertimento lanciato da amici a un paese che si sta allontanando sempre di più dai valori della democrazia occidentali. Le nuove politiche europee sulle etichette avranno effetti irrisori sull'economia israeliana. L'importanza della decisione europea risiede nel messaggio diplomatico che lancia. I territori occupati non fanno parte di Israele e il mondo illuminato si oppone agli insediamenti. Haaretz è un quotidiano progressista di Israele, che quindi ha appunto descritto così questo che viene definito l'avvertimento dell'Unione Europea a Israele. Altri quotidiani e il premier Benjamin Netanyahu sono stati molto più critici verso questa decisione dell'Unione Europea. Era però l'ultima segnalazione che riesco a farvi per oggi. Vi auguro ancora un buon sabato, ci risentiamo sabato prossimo e magari riusciremo a diversificare un pochino di più gli argomenti. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.